24, la storia. E il re senza corona degli arabi, come fu chiamato Lawrence d'Arabia, muore il 19 maggio del 35 in un incidente di motocicletta su una stradina di campagna in Inghilterra. Quella del colonnello Thomas Lawrence è una storia incredibile, raccontata dal cinema, dalla letteratura, e è l'epopea di un uomo, Lawrence, che sognava di riunire il popolo arabo nella grande rivolta contro la dominazione turca. Eppure, da questa impresa sarebbero nati invece tra il 17 e il 18 gli attuali stati di Iraq, Siria, Libano, Giordania e Palestina. Stati che sono in realtà un'invenzione della politica, che avrebbero minato per sempre la stabilità del Medio Oriente. Quella di Lawrence, insomma, è una storia che oggi più che mai ci riguarda da vicino, una storia forse utile a capire le radici dell'assetto attuale del mondo arabo. Così racconta Lawrence nel suo capolavoro letterario I sette pilastri della saggezza. Tutti gli uomini sognano, ma non allo stesso modo. Coloro che sognano di notte nei ripostigli polverosi della loro mente scoprono al risveglio la vanità di quelle immagini. Ma quelli che sognano di giorno sono uomini pericolosi, perché può darsi che recitino i loro sogni ad occhi aperti per attuarli. Fu ciò che io feci. Professor Franco Cardini, ma perché Thomas Edward Lawrence diventa un mito? Diventa un mito per noi, perché non è più purtroppo un mito per gli arabi. Gli arabi non amano Lawrence, gli arabi ritengono, non hanno mai creduto alla storia, che per quanto ne sappiamo noi è vera, secondo la quale Lawrence non sapeva nulla delle intenzioni del suo governo. Per noi perché è diventato un mito? Beh, è diventato un mito anzitutto perché è un grande scrittore. I sette pilastri della saggezza sono uno dei più bei libri che siano mai stati scritti nel XX secolo, ed è un libro pieno di anche di bugie, di invenzioni, di falsità, di menzogne, perché era un grande affabulatore. Gli arabi li amava sinceramente, l'idea della libertà e dell'indipendenza degli arabi l'aveva sposata con una sincerità assoluta, però per il resto poi era un mitomane, era un egocentrico. Professore Franco Cardini, ma l'idea di Lawrence d'Arabia di creare uno stato moderno arabo che comprendesse la penisola arabica, Siria, Iraq, era solo un sogno? No, non era un sogno, era una possibilità reale. Se gli inglesi e i francesi fossero stati in buona fede, la cosa era assolutamente realizzabile, c'erano tutti i presupposti. Il sogno ad occhi aperti di Lawrence fu un'impresa epica, creare un'unica nazione per tutti gli arabi dispersi da oltre 400 anni. La storia di Lawrence ha inizio a cavallo della Prima Guerra Mondiale. Da un lato sono schierati la Francia, la Russia, l'Inghilterra e l'Italia, dall'altro lato la Germania, l'Austria e la Turchia. Il fronte principale è l'Europa, ma presto la guerra si estende alla penisola arabica. E qui, per combattere i turchi che dominano in quella zona, gli inglesi arruolano le popolazioni arabe. A capo di queste truppe di arabi c'è proprio lui, quel piccolo ufficiale inglese, Lawrence, Thomas Lawrence. Ascoltiamo adesso lo storico e scrittore Suleiman Moussa. Well, his life was full. La sua vita fu romanzesca e la sua storia romantica. Da giovane venne qui nei paesi arabi a studiare i castelli dei crociati. Quindi partecipò alla rivolta araba e compì di persona molte azioni militari. Ma non è tutto. Lawrence raggiunse posizioni molto importanti nel governo inglese, ma poi abbandonò tutto per arruolarsi come soldato semplice. Comunque, sia per gli arabi che per gli inglesi, il suo ruolo fu di straordinaria importanza. La sua vita appare ancora più affascinante per gli europei perché legata al mondo incantato ed esotico delle mille e una notte. Per anni vivemmo in promiscuità nel deserto nudo, sotto un cielo indifferente. Di giorno l'ardore del sole fermentava in noi ed eravamo storditi dal vento mordente. Di notte ci bagnava la rugiada e sotto gli innumerevoli silenzi delle stelle ci prendeva vergogna delle nostre nullità. Davvero la sua storia è piena di spunti romanzeschi, persino il modo in cui morì. Anche questo fornisce un tocco finale all'aspetto romanzato della sua vita. Insomma, un eroe romantico che la morte avrebbe trasformato in eroe. La stampa inglese ribattezza subito il colonnello Lawrence come l'ultimo crociato, ma Lawrence stupisce tutti. Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, il colonnello si dimette dal Colonial Office, perfino Winston Churchill si mobilita per fargli cambiare idea, ma Lawrence resta fermo nella sua posizione. Tiene duro, dopo quell'esperienza in Arabia qualcosa è cambiato dentro di lui, qualcosa è cambiato per sempre. Lo sforzo di vivere nei panni degli arabi e di imitare i loro più profondi pensieri mi ha privato del mio io inglese. L'Occidente e le sue convenzioni mi sono apparsi sotto una nuova luce. Tutto è andato distrutto. Allo stesso tempo non ho potuto acquistare un'anima araba. La mia era soltanto apparenza. Così ho abbandonato la mia identità, senza trovarne un'altra. Con la storia di Lawrence d'Arabia riprendiamo dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Bentornati su Mix 24 con la storia di Lawrence d'Arabia. Il colonnello britannico, dopo aver condotto la rivolta araba contro l'impero ottomano durante la Prima Guerra Mondiale, torna a Londra. È il 1922 e il colonnello vive una crisi di identità. Dopo aver combattuto nel deserto, essersi immedesimato nella cultura araba, si chiude per 6 mesi in una soffitta a 2 passi dal Big Bang. In quelle stanze di Burton Street al numero 14, dimenticandosi di mangiare e di riscaldarsi, soffrendo fisicamente per le vecchie ferite ed altre malattie, l'eroe inglese rivive con la memoria gli anni trascorsi nel deserto e scrive I 7 pilastri della saggezza. Un poema epico, la storia intima e romanzata della sua guerra combattuta con la corona inglese a fianco e in nome del popolo arabo. Il suo libro è anche universalmente ritenuto uno dei capolavori della letteratura inglese. Ce ne parla lo storico e scrittore Suleiman Moussa. I 7 pilastri sono la storia personale di Lawrence durante la rivolta araba, non la storia della rivolta. Ma una cosa è molto importante. Leggendo il libro ci si rende conto che fu una rivolta per ottenere l'indipendenza del mondo arabo dal dominio turco. Questa è l'idea. Credo perciò che i 7 pilastri abbiano reso un grande servizio alla conoscenza della causa araba. Compiuto questo sforzo, Lawrence decide di chiudere tutti i ponti con la precedente vita. Chiede ed ottiene di essere arruolato nella RAF come soldato semplice e di essere dimenticato. Nasce un uomo nuovo, l'aviere rosso, ma per lui non c'è pace. Scoperto dalla stampa, è costretto a rifugiarsi presso l'esercito come soldato semplice nel reparto carristi, questa volta con il nome di Shaw. Ma perché Lawrence decide di sottoporsi a una vita così dura e mortificante? Ce lo racconta il biografo Jeremy Wilson. Nemmeno Lawrence in persona avrebbe saputo rispondere a queste domande. Ma credo che la risposta sia questa. Una volta finita l'esperienza della guerra e riscritto per 3 volte il suo capolavoro, I 7 pilastri della saggezza, Lawrence si trovò in uno stato di squilibrio mentale. Ciò appare evidente dalle sue lettere dell'epoca. Non lo sapeva nemmeno lui. Stava semplicemente cercando un rifugio. Il perché Lawrence cercò rifugio fra i militari non è la stessa cosa del perché vi rimase così a lungo. Ma le ragioni di questa decisione vanno cercate nel suo bisogno di essere protetto, di sicurezza. Dunque un uomo complesso, tormentato, disperato, un uomo che sfugge alla sua stessa leggenda. Lawrence avrebbe potuto avere tutto, gloria, fama, onore, invece sceglie una vita povera, ritirata, perfino umiliante. Ma perché? C'è forse qualcosa che deve farsi perdonare. Qual è, insomma, il segreto profondo di Lawrence d'Arabia? Forse per cercare una risposta a queste domande occorre tornare indietro, all'inizio del secolo, negli anni della sua formazione in un college di Oxford. Oxford, 1911. Tutto cominciò per lui al Jesus College di Oxford, con gli studi di archeologia. Il suo maestro, il professore David George Hogarth, scrittore e orientalista, nonché agente dell'Intelligence Service per le questioni politico-militari del Medio Oriente. Quest'uomo cambiò la sua vita. Fu infatti Hogarth a spingere il giovane studente a viaggiare e a partecipare a spedizioni archeologiche in Medio Oriente. Di fatto l'archeologia si andava rivelando una copertura preziosa per le attività di intelligence. Gli scavi nel Carchemish permisero agli inglesi di ottenere informazioni di prima mano sulle installazioni militari dei turchi, sull'ubicazione dei pozzi d'acqua e di comprendere le origini dei fermenti di ribellione che già percorrevano la popolazione araba. E infatti proprio il castello di Azraq, situato in un'oasi dell'estremo est della Giordania, verso il confine con l'Iraq, e visitato da Lawrence in quei viaggi, si rivelò poi un prezioso rifugio nell'inverno tra il 1917 e il 1918. Le popolazioni arabe, insomma, sono percorse dai primi fermenti di ribellione. L'attività degli archeologi, di quegli archeologi, nasconde in realtà un lavoro di intelligence che per il governo inglese è importante e indispensabile. Di questo gruppo, lo abbiamo visto, Lawrence è parte integrante. Ma allora, il suo amore per gli arabi è vero oppure l'amore per loro, per la loro causa, è un amore genuino oppure è solo il doppio gioco di un agente segreto al servizio di Sua Maestà Britannica? In Arabia intanto tutto è pronto per tentare di spodestare la dominazione turca, la polveriera del Medio Oriente insomma è pronta ad esplodere, la miccia viene innescata nella città santa degli arabi, la Mecca, è il 10 giugno del 1916. La Mecca, 10 giugno 1916. Lo sceriffo Hussein della dinastia degli Hascemiti, discendente diretto del profeta, spara un colpo di fucile dal suo palazzo. È il segnale della grande rivolta araba contro i turchi, che occupano le loro terre da oltre 4 secoli. Ce ne parla ancora lo scrittore e storico Sulayman Musa. Alla fine del XIX secolo c'erano molti giovani arabi che avevano studiato a Istanbul o a Parigi, che avevano letto la storia e cominciavano a chiedersi perché dovevano rimanere sotto il giogo ottomano. E così fondarono società segrete e non segrete e chiesero al governo ottomano maggiore autonomia. Ma naturalmente i turchi non furono d'accordo e mandarono in Siria un governatore spietato, Jamal Pasha. Jamal Pasha fece impiccare molti giovani arabi a Damasco e a Beirut e così le società segrete, in rappresentanza degli arabi, presero contatti con lo sceriffo Hussein della Mecca e gli dissero: tu sei il leader spirituale di tutti gli arabi, ti scongiuriamo di dare inizio alla rivolta contro i turchi e noi tutti ti seguiremo fino al raggiungimento dell'indipendenza. Questo fu l'inizio della rivolta araba. Gli arabi però non hanno soldati, ma solo indisciplinati guerrieri delle varie tribù nomadi, sempre in lite tra loro. Non hanno armi se non arcaici fucili, non hanno soldi e peggio ancora non hanno una strategia. Sarà Lawrence, giovane ufficiale di collegamento, a procurare tutto questo. Lawrence comprende che il sogno di un grande stato arabo indipendente non solo può far gioco all'Inghilterra, ma che probabilmente è anche l'unico motivo che può spingere gli arabi alla rivolta. Convincerà l'ufficio del Cairo a scommettere tutto su questa impresa. Ma per questo occorre trovare un leader. Hussein, leader spirituale, è troppo vecchio per una simile impresa, ma ha 4 figli maschi. Subito al primo sguardo capii che era quello l'uomo che cercavo, il condottiero che avrebbe portato la rivolta araba al pieno successo. Faisal aveva un bell'aspetto, era alto, sottile, simile a una colonna nella sua veste bianca, teneva le palpebre abbassate. La sua barba nera e il suo volto pallido erano come una maschera. Lawrence comincia a vivere come un arabo tra gli arabi. acquisendone la mentalità, le abitudini, dividendone le fatiche, i pasti, la sete. Voleva organizzare un esercito, ma prima doveva dimostrare di saper resistere come loro alla dura vita del deserto. Solo così poteva conquistarne la fiducia. Alla fine riuscirà a trasformare i litigiosi nomadi in micidiali guerrieri e a condurli fino alla vittoria finale. Ma per arrivare alla vittoria finale la strada è ancora lunga. Ma che cosa spinge davvero Lawrence? L'utopia di un'unica grande nazione araba oppure le mire colonialistiche dell'impero britannico? E chi era in fondo davvero Lawrence? Un avventuriero, una spia oppure un grande condottiero? Arabia 1916, è guerra. Il colonnello Lawrence raggiunge Faisal sulla costa del Mar Rosso. Improvvisamente mi chiese se potevo indossare un vestito arabo della Mecca. Era più comodo per la vita del deserto. Inoltre tutte le tribù mi avrebbero considerato un loro leader e avrei smesso di seminare curiosità inopportune con la mia divisa inglese. Nasce così la leggendaria figura avvolta in abiti bianchi con il mantello rosso e la kefia, il copricapo bordato d'oro, il principe cristiano della Mecca, lo straniero divenuto condottiero della rivolta per l'indipendenza nazionale, il re senza corona degli arabi. Nel deserto Lawrence comincia a utilizzare le tecniche della guerriglia. La strada da seguire è dunque quella dell'attacco improvviso, con piccole unità dalla grande mobilità, del sabotaggio alle linee di comunicazione nemiche, della ritirata rapidissima prima che la pesante macchina bellica turca abbia il tempo di reagire. Ancora Jeremy Wilson. Non inventò quindi molto, ma portò nuove tecnologie, gli esplosivi, il modo di far saltare i ponti. Sviluppò gli elementi che trovò sul campo. Oggi possiamo chiamarla guerriglia, ma Lawrence sfruttò semplicemente il modo di combattere degli arabi. La lunga ferrovia che da Damasco porta a Medina, attraverso oltre 1000 chilometri di deserto, costituisce l'unica via di rifornimento agli avamposti turchi nel sud dell'Arabia, la regione chiamata Hejaz. E questo è uno dei primi obiettivi scelti da Lawrence: far saltare treni, distruggere locomotive, cancellare chilometri di binari, tendere improvvise imboscate, in una parola, tagliare i rifornimenti e i rinforzi. Così scrive Lawrence nel suo libro I sette pilastri della saggezza. La nostra doveva essere una guerra invisibile. Dovevamo incutere nel nemico la minaccia di un vasto deserto sconosciuto. Noi eravamo un'entità, un'idea, una cosa impalpabile e invulnerabile, senza fronte, senza spalle, vagante come una nuvola d'aria. Gli eserciti sono come piante, immobili, ben radicati, nutriti da lunghi steli. Come un vapore, noi invece potevamo diffonderci dove volevamo. Il deserto e i suoi abitanti sono i grandi protagonisti delle azioni di Lawrence, ma i beduini formano un'armata fluida e instabile, con tribù che arrivano e altre che se ne vanno, a seconda dei territori attraversati, della stagione, del bottino rapinato, specialmente negli assalti ai treni, dei soldi ricevuti dagli inglesi. Un'armata di cui nessuno conosce il numero, che peraltro oscilla in continuazione e che comunque non superò mai i 10.000 uomini. Lo stesso Lawrence non si risparmia, percorre miglia e miglia di deserto a dorso di cammello sotto un sole spietato. Si rivela capace di resistere quanto i suoi compagni alla fame e alla sete. Dorme per mesi sulla sabbia del deserto, sopporta malattie e ferite, rischia la vita in azioni spericolate. Eravamo affezionati gli uni agli altri, per l'ampio respiro degli spazi aperti, per il gusto del vento impetuoso, la luce del sole, le speranze per le quali lavoravamo. La freschezza mattutina ci intossicava. Eravamo esaltati da idee inesprimibili e inconsistenti, ma meritevoli di essere difese con le armi. Per quelle idee così inesprimibili e inconsistenti, come dice lui, Lawrence è disposto a tentare l'impossibile. La conquista di Aqaba, attuale città della Giordania sul Mar Rosso, un'impresa che gli arabi considerano impossibile, mentre per gli inglesi sarebbe un successo decisivo, perché significa poter sbarcare sul Mar Rosso e aprire dunque la strada verso Gerusalemme. Lo raccontiamo dopo la pubblicità. Mix 24. la storia. Bentornati su Mix 24. Il colonnello britannico Thomas Lawrence è riuscito nell'impresa impossibile: conquistare Aqaba sottraendola ai turchi. Per Lawrence dovrebbe essere il giorno del suo trionfo, ma quel trionfo sarà turbato per sempre dal ricordo di quei giovani soldati morti durante quell'impresa. I cadaveri erano bellissimi, tutti soldati molto giovani. Nello splendore notturno sembravano d'avorio. Erano abbandonati in qua e là, o ammucchiati dove la morte li aveva raggiunti. Se li avessi ricomposti, avrebbero finalmente riposato in pace. Così li allineai tutti, ad uno, stancandomi moltissimo e desiderando la loro tranquillità. È il 1917 ed è proprio ad Aqaba che è avvenuto il capolavoro militare di Lawrence. I turchi sono decisi a non mollare lo strategico porto sul Mar Rosso. Il 9 maggio Lawrence parte con 30 guerrieri della tribù di Awaitat. Al comando c'è Auda Abutai, leggendario e spietato predone scelto come capo militare della Grande Rivolta. Auda non sa se considerare quel piccolo soldato inglese un genio oppure un pazzo. Lawrence inoltre possiede una cassa con 20.000 monete d'oro. Al porto di Aqaba tutti i cannoni turchi sono rivolti verso il mare, unica via di accesso. Alle spalle ci sono solo montagne e un deserto sterminato. L'idea folle è proprio quella di attaccare i turchi da dove è impossibile, cioè prendendoli alle spalle. Incomincia il lungo e estenuante viaggio nel deserto. La marcia attira nuove tribù che si uniscono all'armata dei guerriglieri. Superate le ultime montagne, l'armata giunge finalmente in vista del mare. E laggiù c'è Aqaba. Lawrence attende un'eclissi di luna, di cui conosce il giorno e l'ora. Con oltre 500 guerrieri piomba all'improvviso sulla città. L'effetto sorpresa è micidiale. Un intero battaglione di turchi, trovatosi allo scoperto, viene massacrato nella irresistibile carica degli arabi con i loro cammelli. È il 6 luglio del 1917. Lawrence ha compiuto un'impresa straordinaria, destinata a stupire il mondo intero. Quella stessa notte, come spinto da un impulso irresistibile, tornerà da solo a comporre i cadaveri dei nemici uccisi. Ma il tormento di Lawrence non può sminuire l'eccezionalità della sua impresa. Con la conquista di Aqaba per le truppe del generale Allenby, la strada per Gerusalemme è definitivamente aperta. Proprio a Gerusalemme Allenby incoraggia Lawrence a proseguire nella sua opera. Adesso il nuovo obiettivo è Damasco in Siria. In questo modo i turchi si troveranno costretti a combattere su due fronti: da una parte sul mare con le truppe di Allenby e all'interno con le truppe di Lawrence. Il destino di Damasco in questo contesto è praticamente segnato. La città viene conquistata il 1 ottobre del 1918. 1 ottobre 1918. La conquista di Damasco segna il trionfo della rivolta. La folla in tripudio accoglie i beduini di Faisal e Lawrence. Al colonnello inglese vengono riservati tutti gli onori che spettano i principi arabi delle grandi dinastie, ma l'ebbrezza dura solo un giorno. L'arrivo delle truppe regolari guidate dal generale Allenby svelerà il vero significato di quella vittoria. Non la creazione di un grande stato arabo indipendente, l'ideale per cui Lawrence era riuscito a riunire tutte le tribù beduine, bensì la vittoria della strategia degli alleati. Ma Lawrence sapeva che i giochi erano già fatti? Ce ne parla Sulaim Moussa. Lawrence era a conoscenza di un trattato segreto fra il governo inglese e quello francese, noto come l'accordo Sykes-Picot, ma nello stesso tempo sperava che gli arabi avrebbero conquistato l'indipendenza dopo la guerra, naturalmente come alleati della Gran Bretagna. Lawrence, bisogna ammettere, fece del suo meglio per difendere gli interessi arabi, ma non riuscì a raggiungere tutto quello che gli arabi desideravano. Se io fossi stato un consigliere onesto, avrei detto agli arabi di tornare a casa e di non arrischiare le loro vite per una simile prospettiva. Ma mi giustificavo con la speranza che sarei sopravvissuto alle campagne e che avrei saputo sconfiggere non solo i turchi sul campo di battaglia, ma anche la mia patria e i suoi alleati al tavolo verde. Perciò dovetti prendere parte alla congiura e, per quel che valeva la mia parola, assicurai loro che i patti sarebbero stati rispettati. In 2 anni di vita nel deserto, di cameratismo sotto il fuoco, essi si abituarono a credermi e a pensare che il mio governo, come me, fosse sincero. Con questa speranza compirono alcuni atti straordinari, ma naturalmente, invece di essere orgoglioso di ciò che facevamo insieme, me ne sentivo continuamente e amaramente vergognoso. È l'ora della più profonda crisi. Lawrence dà le dimissioni, si mette a scrivere, vuole essere dimenticato per il resto dei suoi giorni. La rovina di Lawrence è nel crollo delle sue illusioni. Lawrence credeva che la conquista di Damasco avrebbe significato la nascita di un unico stato arabo che si estendesse dalla Mesopotamia, l'attuale Iraq, fino all'Egitto. In realtà però, con un accordo segreto, Francia e Inghilterra hanno già deciso in un modo diverso. Tutto quell'immenso territorio sarà diviso, smembrato in molti protettorati sotto l'influenza ora inglese, ora francese. Lawrence allora capisce di essere stato solo uno strumento nelle mani delle grandi potenze coloniali e di aver tradito la fiducia degli arabi che credevano in lui. Per Lawrence, insomma, la conquista di Damasco segna l'inizio della sua crisi, ma forse in quel tormento affiorano anche dei traumi più profondi e più personali. La conquista di Damasco mi rivelò come le sorgenti stesse del mio agire si fossero esaurite. Il motivo più forte che mi aveva spinto a questa impresa era personale. Non ne ho mai parlato, ma mi è sempre stato presente, ogni ora di questi 2 anni. Dolori e gioie potevano innalzarsi come torri nei miei giorni, ma questo impulso segreto, penetrante come l'aria, si riformava sempre, come un elemento vitale, fin quasi alla fine. Ma prima di raggiungere Damasco, era morto. Cos'era o chi era questo motivo personale così importante e così nascosto, scomparso poco prima dell'entrata in Damasco? Una prima risposta viene dalla dedica rivolta alla misteriosa o al misterioso S.A. Ti amavo, perciò ho sospinto con le mie mani queste fiumane d'uomini e ho scritto la mia volontà sul cielo, con le stelle, per conquistarti la libertà, la degna casa dei 7 pilastri. Perché i tuoi occhi risplendessero per me una volta arrivati. Lungo la via, la morte sembrava la mia serva, finché fummo vicini e vide te che aspettavi. Poi sorridesti, e con dolorosa invidia vidi che mi oltrepassava e ti separava da me, portandoti nella sua pace. Lawrence non ha mai rivelato chi si celava dietro quelle due iniziali. Anche ai suoi amici più fidati ha sempre dato risposte evasive e fuorvianti. Gli studiosi si sono affannati alla ricerca di quella persona e si sono scontrati. Per alcuni non esiste, si tratta solo di un enigma volutamente creato da Lawrence. Per altri, l'ipotesi più probabile è che si tratti di Salim Ahmed, soprannominato da Umma, un giovane amico di Lawrence conosciuto negli anni degli scavi di Carchemish, è morto di tifo nell'estate del 1918. Daum era stato perfino in vacanza nella casa dei genitori di Lawrence a Oxford. Lawrence, omosessuale? No, non ci sono prove. Se si leggono le sue opere, certe parti possono dare l'idea di relazioni omoerotiche. D'altra parte, bisogna anche pensare che Lawrence ha vissuto tutta la sua vita in ambienti completamente maschili. Quindi, anche se avesse voluto fare un apprezzamento su un essere umano, sarebbe stato un uomo, perché di donne non ce n'erano. In realtà del leggendario colonnello inglese non si conoscono relazioni intime né con donne né con uomini. In vari passaggi dei suoi scritti, Lawrence definiva il sesso come una ginnastica comica e ridicola. E ciò coincide con le testimonianze di chi lo ha sempre considerato come un essere asessuato, privo di interessi in questo campo. Ce ne parla Arnold Lawrence, fratello di Lawrence d'Arabia. Detestava l'idea del sesso. Aveva letto una gran quantità di letteratura medievale su personaggi di cui alcuni erano santi, altri no, altri erano gente comune che avevano soffocato i loro desideri sessuali, infliggendosi sofferenze fisiche. E fu proprio quello che lui fece. Il grande stratega della rivolta araba, insomma, è prigioniero nel labirinto dei suoi incubi. Le grandi vittorie di Aqaba e di Damasco si sono trasformate in una sua sconfitta personale. Eppure Lawrence, lo abbiamo visto, era un uomo, un agente dell'intelligence inglese, dunque era sicuramente a conoscenza dell'accordo segreto tra Francia ed Inghilterra per spartirsi i territori arabi. Anche perché i russi avevano reso pubblico questo accordo, questo trattato, già nel 1917, quindi un anno prima della presa di Damasco. Ma allora, qual era veramente il piano di Lawrence? Intendevo creare una nazione nuova, ristabilire un'influenza decaduta, dare a 20 milioni di semiti la base su cui costruire un ispirato palazzo di sogni per il loro pensiero nazionale. Ma quando vincemmo, fui accusato d'aver messo in pericolo i profitti inglesi sui petroli della Mesopotamia e d'aver rovinato la politica coloniale francese nel Levante. Riprendiamo da qui dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Parigi, gennaio 1919. Lawrence partecipa alla trattativa di pace dei paesi vincitori in qualità di consigliere e interprete di Faisal, ma viene sconfitto sul piano diplomatico dalle intransigenti nazioni di Francia e Inghilterra. L'accordo Sykes-Picot, l'accordo segreto sulla spartizione del mondo arabo, si rivela blindato. Faisal rappresenta uno Stato che non esiste. Siria e Libano vanno alla Francia. Iraq e Cisgiordania, oltre ai protettorati su Palestina e Arabia, all'Inghilterra. Lawrence fece il possibile, specialmente alle conferenze di pace, ma alla fine il governo inglese e quello francese si misero d'accordo e il petrolio fu la ragione di questo accordo. Il petrolio. Nell'accordo originale, la regione di Mosul, dove adesso si trovano i curdi, molto ricca di petrolio, doveva andare ai francesi, ma gli inglesi si presero questa regione e dettero in cambio ai francesi il permesso di controllare la Siria e di entrare a Damasco. Questo fu il prezzo di Mosul, la cacciata di Faisal. Lawrence sentì quindi sinceramente d'aver tradito gli arabi perché aveva promesso loro l'indipendenza. Ma Lawrence ancora non si arrende. Dopo aver tentato di imbastire un impossibile accordo fra gli arabi di Faisal e gli ebrei del movimento sionista di Weizmann, viene chiamato come consulente questa volta dal neo ministro degli esteri inglesi Winston Churchill. Lawrence partecipa ancora da protagonista alla nuova conferenza del Cairo del 1921. Deve rimediare alla cacciata di Faisal dalla Siria da parte dei francesi, e ci riuscirà. Ognuno dei figli di Hussein avrà un suo regno sotto protettorato britannico: l'Iraq per Faisal, la Cisgiordania per Abdullah e l'Arabia per Hussein. Poi la storia farà il suo corso e la regione sarà destinata a diventare uno dei punti più caldi del mondo fino ai nostri giorni. È successo di tutto e ci sono stati molti sviluppi, ma l'accordo Sykes-Picot è ancora presente nella mente degli arabi, perché quel patto prevedeva la creazione di un centro nazionale per gli ebrei, cioè lo Stato di Israele. E qui in Giordania, come in tutto il mondo arabo, abbiamo sofferto molto a causa di quelle decisioni. E le decisioni prese a Parigi avrebbero avuto delle conseguenze sul Medio Oriente per molti anni a venire, probabilmente fino a oggi, fino ai giorni nostri. La posta in gioco del resto era troppo alta, quel petrolio era troppo importante per l'Occidente, ma per Lawrence d'Arabia le ragioni della politica si rivelano inaccettabili. L'ex colonnello rifiuta onori e gloria. Quando i francesi gli conferiscono la croce di guerra, Lawrence l'accetta, ma per trasformarla nel collare del suo cane. Anche se il mondo fatica a dimenticarsi di lui, Lawrence chiede solo di essere dimenticato. Per lui resta solo l'emozione di quelle corse in motocicletta per le strade del Dorset. 1935. Nonostante fosse abile nella guida e gli piacesse la velocità, in quella tiepida mattinata di primavera l'ex colonnello non si spinge oltre gli 80 e 90 km orari. Un'automobile nera lo aveva costretto a spostarsi verso il ciglio della strada. Poco più avanti c'è un dosso che gli impedisce la visuale. Come aveva fatto centinaia di volte, Lawrence affronta il dosso senza staccare il gas. Solo all'ultimo momento si accorge di due ciclisti. ma nonostante la brusca sterzata, non riesce ad evitare l'impatto che lo scaraventa fuori strada. Anche sulla morte di Lawrence si è speculato. Fu un incidente? Tutto fa pensare di sì, anche se in seguito alcuni hanno avanzato il sospetto di un omicidio. Ma chi è che poteva volere la morte di Lawrence? Erano forse i nazionalisti arabi che lo ritenevano responsabile di un inganno che pareva premeditato? Erano gli stessi arabi che già nel 29 protestavano violentemente contro i primi insediamenti ebrei? Oppure erano i servizi segreti britannici a volere la morte dello scomodo ex colonnello per le sue presunte simpatie verso l'ideologia nazista? Secondo molti, sono solo speculazioni avvenute durante la sua agonia. Morirà 6 giorni dopo, il 19 maggio 1935. Al suo funerale una folla di politici e militari mescolati ad anonimi amici della prima e della seconda vita. Ma se il suo corpo è morto quel giorno e se la sua anima era già morta sulla strada per Damasco, quello che continua a vivere è il mito, la leggenda, il fascino nei confronti di un uomo che forse passerà alla storia come l'ultimo eroe romantico. Tutti gli uomini sognano, ma non allo stesso modo. Coloro che sognano di notte nei ripostigli polverosi della loro mente scoprono al risveglio la vanità di quelle immagini. Ma quelli che sognano di giorno sono uomini pericolosi, perché può darsi che recitino i loro sogni ad occhi aperti per attuarli. Fu ciò che io feci. Franco Cardini, orientalista, professore dell'Istituto Italiano di Scienze Umane. Ma secondo lei, Lawrence aveva sposato davvero la causa araba oppure, essendo anche una spia dell'intelligence inglese, faceva il doppio gioco? Lawrence parte da un... Lawrence è un passionale. Parte da un grande innamoramento da buon inglese, anche se lui era un inglese particolare con molto sangue che veniva da altrove. Parte da un grande innamoramento per gli inglesi che vanno altrove, per Riccardo, sì, Cuor di Leone, per i conquistatori inglesi. È un innamorato dell'impero inglese e dell'avventura. Si incontra con un mondo che lo prende, che lo affascina, se ne lascia conquistare. Lawrence in fondo ha il difetto dei grandi seduttori, in realtà è continuamente sedotto. Lawrence è Don Giovanni della storia. Crede di possedere il mondo arabo, impara rapidissimamente l'arabo, impara anche... Ma alla fine Lawrence però... È un posseduto dal mondo. È un posseduto, ma era più un posseduto o più una spia? Lawrence avrebbe dovuto fare la spia. Parte con l'idea, è un buon patriota, è anche una persona che a modo suo è un po' tutto sommato un calcolatore, uno che spera di fare carriera, non sa bene in che senso, quella accademica, quella politica, quella diplomatica. E incontra questa avventura nella sua vita. La donna della sua vita, la donna della sua vita è l'Arabia, esatto, il mondo arabo, eccetera. Se ne innamora perdutamente e questo per una spia è un male. Ecco, ma il destino del Medio Oriente comunque era già scritto oppure no? Lawrence o non Lawrence? Ma io credo che i destini non sono mai scritti, però d'altra parte il destino è il risultato dell'incontro fra vari progetti che fanno, per così dire, il braccio di ferro tra loro, e quel tanto di imponderabile, come diceva il sociologo Pareto, o di Zbailohim, di mano di Dio, come dicono più saggiamente gli ebrei, per cui gli uomini cercano di disporre le loro carte, poi arriva Dio che butta tutto all'aria, anche perché, come dicevano i greci, Dio, gli dèi giocano con i dadi truccati. Ed certo. È questo che ci frega. Certo, perché sono dei. Perché sono dei. Ma quegli accordi di Parigi di cui abbiamo parlato, quanto hanno pesato poi successivamente su tutto quello che è successo in Medio Oriente da allora a oggi? Io credo che il prezzo degli accordi di Parigi noi non abbiamo ancora finito di pagarlo. Era una cambiale a lunghissima scadenza, era un mutuo che noi abbiamo firmato con l'illusione di poter tenere a bada il grande mondo arabo che abbiamo sottovalutato perché il mondo arabo usciva da un grande letargo. In realtà l'Islam che noi abbiamo conosciuto nell'età moderna è l'Islam turco, l'Islam persiano, l'Islam mughul, certo, l'Islam dei grandi imperi asiatici, ma il mondo arabo noi pensavamo fosse in letargo. Quindi in qualche modo i nostri problemi nascono tutti di là, da Parigi? Credo che molti dei nostri problemi nascano da Parigi. Poi in molti per quello che riguarda il rapporto con il Medio Oriente. I problemi evidentemente nascono da noi. Noi occidentali il processo di globalizzazione e di dominio del mondo non l'abbiamo inventato negli ultimi decenni, l'abbiamo cominciato nel Cinquecento mandando in giro le navi armate di cannone. Ma per chiudere, un'ultima domanda, se lei dovesse dire per lei chi era alla fine veramente Lorenz, un visionario, un eroe romantico oppure una spia a cui è sfuggito di mano un gioco più grande di lui? Visionario, eroe romantico, spia a cui è sfuggito di mano il gioco più grande di lui, senza dubbio tutte e tre queste cose. Io le sintetizzerei in questa maniera. Lorenz è un traditore della peggiore specie, non ha mai tradito il mondo arabo, contrariamente a quello che pensano molti arabi oggi, ma ha tradito la sua missione di agente dell'intelligence britannico, non per denaro, non per brama di potere, ma per la peggiore delle cose, perché si è sinceramente e gratuitamente innamorato dell'oggetto dei suoi sogni. I tradimenti nel nome dell'ideale l'Occidente non li perdona.